testa tra le cosce, eri meno forte, non volevi certo realizzarti come donna e non prendevi inutili lezioni col tuo pianoforte. Ora certo non pretendo di essere io quello che ti insegna il sesso e il sentimento. Non sono le fotografie dei turisti a dare Oaxaca al senso dello sporco. Non conta quanto forte lo si dice, l'amore vero annega, non respira in superficie. Fino al centro del cuore, ciò che tu chiami amore ora è soltanto il desiderio di qualcuno che ti stia accanto. Comprati un frigo nuovo o fai un figlio, alleva un gatto, un cane oppure fai a Mapuche. Datti allo yoga o allo Ayurveda, fingi un orgasmo e poi pretendi che ci creda. Chi si fida, l'amore vero vive con la furia di un suicida. La la la la la la la la la. Se tutti andassero a Santa Fe, in poco tempo tu cammineresti fino a là. E se nei telefilm togliessero quelle risate, credo che non ti divertiresti più. Avere coscienza di seguire un'illusione, godere nel commettere anche una cattiva azione. Sapere che sei vivo e che ti senti bene, spezzare le catene anche a costo di far male. La chiamano passione a navigare così, e andrò a cercare il mare. Non conta quanto sangue tu gli chieda, l'amore non sopporta che qualcuno lo veda. La la la la la la la la la la. Non conta quanto odiosa è la cattura, l'amore che si tocca così tanto non dura.